Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che torna sulla figura di Vini Cioberti, uno dei più importanti illustratori del Pioniere. Tanto per ricordare, due eroi tra i più illustri sono Chiodino ed Atomino, veramente popolarissimi nei piccoli lettori del Pioniere. Abbiamo già visto come Vini Cioberti in realtà fosse anche un pittore molto importante dell'avanguardia toscana, ma oggi invece con Evio Francioli, che insieme a Sergio Risaliti ha curato proprio al Museo Novecento di Firenze una mostra su il pittore Vini Cioberti, invece lo ricordiamo in quanto illustratore di fumetti. E così nell'intervista di Morena Moretti dopo lo stacchetto musicale sentiamo la voce di Evio Francioli. Dire che il fumetto è stata una parte fondamentale della sua produzione, una produzione che sin dagli esordi in realtà ha guardato alla grafica o il tratto di questi dipinti. C'è una forte connessione, a mio parere, con pratica, proprio con l'attività grafica di Vini Cioberti, che appunto fin da giovanissimo realizza anche non solo delle strisce, non solo dei fumetti, ma anche delle grafiche che andavano proprio in contrasto, in aperto contrasto con il regime fascista. Sono note appunto dei volantini realizzati da Vini Cioberti, nei quali ovviamente si faceva propaganda antifascista che venivano distribuiti nella città di Firenze in maniera clandestina, per cui un'attività che appunto data fin dagli anni del regime, fin dagli anni della guerra. Ecco, ricordiamo che le vignette avevano anche un loro valore perché molta popolazione era analfabeta. Esatto, sì, assolutamente, quindi il potere comunicativo e narrativo delle immagini che è fondamentale appunto per Vini Cioberti, l'importanza di creare una narrazione tra l'altro con un linguaggio che fosse contemporaneo. È noto che appunto negli anni 30, come l'incontro con i fumetti sia avvenuto nel corso degli anni 30, quindi stiamo parlando di un Vini Cioberti giovanissimo, Vini Cioberti un adolescente, ecco, che copre l'avventuroso, copre appunto i fumetti pubblicati da Merlini, questa fascinazione per il fumetto che poi si traduce così come le sue strisce in quelli che sono i suoi personaggi realizzati appunto per il Pioniere in collaborazione con Argilli, un fumetto che appunto considera un'espressione della propria epoca in senso stretto. Secondo Vini Cioberti c'era tanto di anticulturale, di popolare in questo tipo di linguaggio, e questo lo rendeva strettamente contemporaneo, questo rendeva il fumetto in grado appunto di parlare a chiunque con una narrazione che fosse effettivamente chiara, in grado di quasi esprimere la cronaca di quei giorni. In realtà Vini Cioberti la considera alla stessa stregua delle arti maggiori, se così vogliamo, proprio perché è in grado di veicolare messaggi strettamente contemporanei con un linguaggio strettamente contemporaneo e con una grande forza antagonista. C'è qualcosa che non va in questo cielo, c'è qualcuno che non sa che ore sono, c'è chi dice qua, c'è chi dice là, io non mi muovo, c'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non ci sono, tanta gente è convinta che ci sia nell'aria qualche cosa chissà, quanta gente comunque ci sarà che ti accontenterà. Ah. Sempre con Eva Francioli, ricordando la figura del fumettista Vinicio Berti. C'è questo aspetto che mi preme sottolineare di Vinicio Berti, il suo radicale antagonismo. Era un artista, è stato tutta la vita un artista comunista, ha sempre creduto nell'ideologia comunista, è stato un artista iscritto al PCI, ha collaborato anche con diversi testati del partito, ha sempre avuto comunque sia una posizione critica, che mette uno sguardo indipendente, e questo lo rivediamo. Lo possiamo riscontrare anche nella fortuna critica e commerciale di Vinicio Berti stesso. Non è un caso che sia un artista dimenticato, come abbiamo detto in apertura. Questo non c'entra niente con il valore delle sue opere, che sono che è di un livello altissimo. Probabilmente c'entra con quella che è stata la sua lotta, con le scelte di tutta una vita, scelte che lo hanno visto sempre nella direzione contraria, ostinatamente contraria a quelle che erano le scelte del sistema dell'arte. E quindi questo secondo me è un aspetto molto importante, perché è un artista che parte da una realtà popolare e che parla al popolo con un linguaggio semplice, diretto e complesso allo stesso tempo, e questo lo rende secondo me un artista in grado anche di oltrepassare e valicare i limiti temporali di un determinato periodo storico e di rendere universale la sua ala. La sua appartenenza politica ostacolò secondo lei il giusto riconoscimento del valore artistico di Vinicio Berti? Allora no, nel senso ha avuto dei problemi all'interno, e non solo lui, tutta la corrente degli astrattisti qui all'indomani della Seconda Guerra Mondiale ha avuto grandi problemi in Italia, anche perché ovviamente gli organi del partito, in primo luogo Togliatti, erano assolutamente in linea con quelle che erano le direttive che provenivano dall'Unione Sovietica, e ovviamente tutti gli astrattisti hanno avuto quindi dei grandissimi problemi. Si sono però mossi probabilmente quello che era il sistema dell'arte. Vinicio Berti è sempre rimasto legato comunque alla sua città, una persona che per quello che ha potuto insomma apprendere studiando le sue carte, studiando i suoi diari, è una persona che non è mai scesa a compromessi, e questo ovviamente può aver forse in parte compromesso quella che poi risulta da essere la sua fortuna anche critica e di mercato. Un artista purtroppo dimenticato, ma che avrebbe meritato ben altra considerazione nell'ambito appunto della storia dell'arte italiana, non essendo secondo a nessun altro appunto degli artisti che si sono affermati nell'Italia del secondo dopoguerra, come dicevo, e che erano vicini a Vinicio Berti e che proponevano anche ricerche di tipo affine sempre in quegli anni, tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50. Stiamo parlando di un artista che noi definiremmo un artista giovane, perché dobbiamo pensare che in quegli anni aveva più o meno 30 anni.

questo quarzo nato mio. Sono nato per l'esplorazione, ritrasmetto anche in Eurovisione. Se succede al mondo un fatto strano, se dal cielo viene giù un marziano, stai tranquillo c'è Tomino. Fra le stelle di pianeti, per scoprire i suoi segreti, faccio strada perché sicura sia l'umanità. Seconda parte della trasmissione è legata a un nome importantissimo della letteratura e non solo al femminile. Parliamo di Virginia Woolf, perché per Becco Giallo Liuba Gabriele ha prodotto questo libro a fumetti, Virginia Woolf per l'appunto, che riporta nell'altra letteratura la grande letteratura. Liuba Gabriele è stata intercettata da Simona Sagone di Yucali ed è stata un'occasione per chiarire il fascino proprio di Virginia Woolf. Stiamo parlando con Liuba Gabriele, che ha scritto un libro su Virginia Woolf. Perché ha scelto questa figura femminile per il suo libro illustrato a fumetti? Virginia Woolf è la scrittrice che più di tutte ha colpito la mia sensibilità nelle mie prime letture di ragazzina prima e che poi ha continuato a stupirmi anche nel corso degli anni. Io sono stata molto affascinata dalla sua figura e ho desiderato poi approfondirne la storia e le letture. Quindi questo romanzo è una sorta romanzo grafico, una sorta di tributo a questa grandissima scrittrice. Ecco, come lo ha composto? Racconta la sua vita, la vita di Virginia Woolf, come è organizzata? Racconta alcuni dei momenti salienti della vita della scrittrice, in particolare l'attenzione posta sulle emozioni che vive la scrittrice. È scritto principalmente in prima persona, quindi entriamo proprio nel suo mondo. E un altro aspetto che ho cercato di raccontare è il suo rapporto d'amore con la scrittrice Vita Sackville West e il suo rapporto di fiducia, comprensione e affetto col marito fondamentale Leonard Woolf. Le illustrazioni coloratissime, come sono, con che tecniche sono realizzate? Sono disegnate a matita principalmente, poi ci sono dei ritocchi in un secondo tempo fatti in digitale. È un libro che è indirizzato più o meno da che età in su fino ai 100 anni e più? Direi dai 12 in su. Ha già avuto modo di fare delle presentazioni verso questo pubblico di quest'età o ancora non ci sono state presentazioni verso gli adolescenti? Beh, c'è stata una presentazione a Parma. In quell'occasione c'erano anche dei ragazzi molto giovani, la struttura che l'ospitava si chiama l'ostello. Successivamente ho fatto altre presentazioni, però devo dire la fascia d'età che ho trovato era un pochettino più alta. E che riscontro ha avuto? Sto avendo dei riscontri positivi e mi fa molto molto piacere che stia succedendo, è anche un po' inaspettato, una sorpresa, una bella sorpresa e vediamo come prosegue questa avventura. Perché è un personaggio, Virginia Woolf, che penso che intrighi molto, soprattutto il pubblico femminile. Sì, è proprio così, ho riscontrato l'attenzione prettamente femminile, non solo ovviamente, però sicuramente c'è un'attenzione particolare. C'è voglia di riscoprirla? Penso proprio di sì, penso che proprio sia un punto di riferimento letterario per tantissime persone. Che nuvole il vento non le scioglierà, le bambine di Renoir, fiori gialli a Montparnasse, le ragazze di Gauguin, dentro gli occhi hanno sole, lampi di uragani,